Di Enrichetta Caracciolo di Forino, I misteri del chiostro napoletano. Copia liberamente disponibile online in liberliber.it. Nei primi quattro capitoli Enrichetta racconta la sua infanzia, dapprima felice, in seguito a causa della caduta in rovina del padre, divenuta difficoltosa. Poi racconta di come la madre le negò il fidanzamento e il matrimonio per ben due volte e di come, con la morte del padre, rimase completamente in balia della volontà di sua madre di rinchiuderla in convento, nonostante le sue suppliche, convulsioni e svenimenti, con la giustificazione che il padre l'aveva lasciata senza dote e senza mezzi, e che dunque lei, sua madre, non aveva modo di mantenerla finché non avesse iniziato a prendere una pensione. Come abbiamo detto, la permanenza di Enrichetta nel monastero doveva essere solo temporanea, o almeno così le venne detto dalla madre, che invece aveva già deciso per la clausura definitiva di questa sua figlia passionale e ribelle. La nostra lettura comincia dal capitolo in cui Enrichetta entra in convento. Era prossimo il Natale. Le nozze di Giuseppina dovevano celebrarsi privatamente il secondo giorno di gennaio. Disse un mattino mia madre che urgenti faccende l'obbligavano a uscire sola, ma che sperava di non trattenersi lungamente fuori di casa. Ritornò infatti dopo un'ora di assenza. La contemplai. Mi parve giuliva, anziché no. Donde dedussi e congetturai che l'affar suo di premura avesse avuto un esito prospero. Né devo nascondere il fatto che palpitai per inquietudine, supponendo non si tramasse a mia insaputa qualche progetto di matrimonio, il quale stesse per definitivamente separarmi dall'oggetto dei miei pensieri. Erano appena scorsi pochi giorni da questa gita misteriosa, quando una mattina alle 8 fu suonato alla porta. Il domestico non era in casa, l'uscio fu aperto da me. Una fantesca che conobbi per quella della mia zia badessa recava sulla guantiera un dono di dolci. Alla prima vista del dono rimasi conturbata, avendo supposto che quello esser potesse l'esordio d'una qualche trattativa di matrimonio per me. Tale, presso alcuni, è l'usanza. Le sembianze della fantesca mi rinfrancarono. Io respirai. Siete voi la signorina Enrichetta? Domandò questa. Sì, risposi. La signora badessa, vostra zia, vi saluta. Oh, grazie, grazie altrettanto da parte mia. E vi fa conoscere che il capitolo è riuscito all'unanimità per la missione vostra al monastero. Per la missione mia? Per me? Buona figliola, vi ingannate? Risposi ridendo di buon cuore. Sì, signora, per voi stessa, non mi inganno, no? Venite dunque subito a ringraziare le monache e fissare il giorno dell'entratura. Mia madre, non vedendomi ritornare sull'istante, veniva a vedere con chi mi intrattenessi all'uscio e giungeva a tempo per udire le ultime parole della cameriera. Comprendendo che quel discorso, quanto inaspettato altrettanto spaventevole, doveva stordirmi per modo da togliermi l'uso della favella, va bene, disse, sospingendomi e facendosi avanti. Ringrazia cordialmente mia cognata e dille che la monachella le sarà condotta oggi stesso. Ciò detto, chiuse l'uscio e, presami per la mano, divenuta più fredda del ghiaccio, mi menò nella camera da letto. Se un fulmine mi avesse atterrata, non avrei ricevuto una scossa più formidabile. Proruppi in singulti disperati, mi rovesciai bocconi sull'origliera del canapè, mi innaffiai con molte lacrime, indi mi slanciai in grembo alla madre, implorando misericordia alle sue viscere. Ella, imperturbabile di contegno, sebbene non priva di commozione, stese la mano sulle mie palpebre per asciugarmi col fazzoletto le lacrime. Poi, in tuono grave e con parole misurate, che mi risuonano tuttora all'udito come sentenza di pena capitale, disse essere stata costretta a fissare il mio ingresso nel monastero, sì dalle ristrette sue finanze, sì dal mio capriccio per Domenico. Le tue zie, soggiunse, sono ricche. Consegnandoti a loro infino a tanto che io cominci a percepire le mie pensioni, sarò sgravata di un peso. Sono sicura d'altronde che la pace del convento servirà di molto a calmare il tuo cuore, turbato da una folle passione. Ma dopo 2 mesi, le amorevolezze delle monache non avranno espulso dal cuore tuo l'aborrimento per il chiostro, prometto di riprenderti meco. Per ora Ritrattarmi non posso, fatte già essendo a tuo favore il capitolo per l'ammissione. Mamma! Esclamai, gettandomi ai suoi piedi e serrandole convulsivamente le ginocchia. Mamma! Non mi rinchiudere, per pietà! Al solo nome del monastero! Mi sento presa dalla disperazione! Ella si alzò bruscamente, svincolandosi dalle mie braccia, e in tuono severo mi disse: Tuo padre non ha lasciato per te né dote né tutore. L'arbitra della tua sorte sono io sola. Le leggi divine e umane ti impongono l'obbedienza e a fede di Dio tu ubbidirai. Contenni, per ultimo segno di protesta, i singhiozzi e non aggiunsi parola. Del resto ogni osservazione ulteriore sarebbe tornata ugualmente vuota di effetto. Vedutami ammutolita, impietrita, con le mani giunte, con gli occhi volti al cielo, con la più profonda costernazione impressa nel mio atteggiamento, parve la madre mossa a pietà della figliuola, per lo che, raddolcendo la voce, è venuta a carezzarmi con la destra le inanellate trecce, prese a esortarmi in accenti meno duri, in sensi più conformi alla materna carità, disse: Il convento non essere carcere, come il mondo generalmente suppone, ma sì orto di salute, intemerato asilo, ove le anime superiori alle sociali vanità o abbeverate da disinganni rinvengono respiro non mai contaminato dall'alito funesto delle passioni né soggetto alle procelle del secolo. Trovarsi d'altronde profusi in quei riti non soltanto gli spirituali conforti, ma inoltre tutti gli agi della vita nobile, e perfino le raffinatezze e le oneste ricreazioni del mondo elegante. Se così non fosse, come vi si sarebbero albergate tante e tante centinaia di giovanette discese dalle più illustri prosapie di Napoli, munite di vistose dotazioni? Alla fin fine, l'ingresso mio nel chiostro non sarebbe stato che un breve saggio di 2 mesi, allo spirar dei quali avrei, volendolo, recuperata senza fallo la mia libertà, per farne l'uso che meglio mi converrebbe. Mi disse queste ed altre cose ancora. Erasi frattanto proposta di condurmi al monastero nella giornata, ma l'enfiagione dei miei occhi, essendo tale da metter paura, dovette suo malgrado astenersene. Il giorno appresso, veggendo che invano si sarebbe attesa la fine del pianto, mi ordinò di apparecchiarmi. Povera Giuseppina, io non aveva né la mente né il cuore assegno. Fu d'essa che mi allestì. La madre ora rimproverava le mie esitazioni, ora mi incoraggiava dicendomi: «Sta pur certa che fra 2 mesi verrò a riprenderti». Dalla carrozza scesi alla porta del monastero, contristata, e montai piangendo la prima scala che mena alla seconda detta della clausura. Nell'aprire la porta suddetta, la portinaia suonò un campanello onde avvertire la comunità che la vittima stava per entrare. Mia zia, la badessa, trovavasi nella porteria e fu la prima a venirmi incontro. Tutta contenta mi strinse al seno e sussurrommi all'orecchio in tuono febbilmente imperioso di ringraziare le monache del favore che mi avevano usato accettandomi per loro compagna. Le venerande sembianze e la voce di mio padre, ripetute nel volto e nella pronunzia della badessa, mi scossero per modo che credetti di cader tramortita. Frattanto le monache accorrevano in folla per vedermi, cacciando la testa le une sulle altre e salendo perfino sulle seggiole, né facevano a bassa voce i loro commenti intorno alla mia persona: chi mi trovava bella, chi brutta, chi simpatica, chi antipatica, chi di contegno docile, chi d'aspetto recalcitrante. Io mi sentiva oppressa, soffocata. Avrei preferito di morire piuttosto che entrare per spontanea volontà in un luogo dove il libro della civiltà prometteva fin dalla prefazione guarentigie si scarse. I ringraziamenti raccomandati dalla badessa furono proferiti non da me stessa, ma sibbene da mia madre, la quale, fra le altre cose, disse come la mestizia del mio volto non doveva si attribuire ad altra cagione se non alla morte recente di mio padre e alla separazione dalla famiglia. Il discorso, non lungo ma condito di complimenti copiosissimi a nome mio recitati, venne interrotto dall'arrivo dell'altra mia zia paterna, chiamata Lucrezia, la quale, perché accidentata sia alle membra che nel senno, entrò sostenuta da 2 converse. Gli sponsali di Giuseppina erano stati fissati al 2 gennaio 1840. Si fermò dunque col consenso della madre della zia Badessa che sarei entrata nel convento 2 giorni dopo le nozze. Ritornai in casa, ricusai di prendere alimento alcuno e fino al giorno fatale i miei occhi non cessarono di versare gran copia di lacrime. Quanti sforzi magnanimi non usarono i parenti paterni onde indurre mia madre a non sacrificarmi. Rispondeva costei che farmi dimorare 2 mesi in un convento di nobili donzelle non era al certo volermi immolare. Tale, infatti, come ebbi più tardi l'occasione di verificare, era allora la sua intenzione. La principessa di Forino si offrì di tenermi in casa sua per quei 2 mesi e i suoi figli, i miei cugini, si impegnarono a farmi sposare il duca di nostro lontano parente e allora vedovo. Mia madre rese grazie dell'offerta gentile e disse che del matrimonio se ne sarebbe riparlato al suo ritorno di Calabria. Né soltanto gli stretti parenti, ma pure agnati e amici gareggiarono in quella circostanza di compassione e di benevolenza in mio soccorso. Il generale Saluzzi, uomo dotato di non comune filantropia e commilitone di mio padre, mi assicurò che qualunque fosse per essere nell'avvenire lo stato mio, egli mi avrebbe fatto un dono di 1.000 ducati. La sera del 2 gennaio avvenne, come era stato prestabilito, lo sposalizio di mia sorella Giuseppina. L'accompagnai piangendo. Inseparabili sono le lacrime dal mio dramma. Ella andava nelle braccia di un uomo che amava. Io, misera, mi allontanavo per sempre da lei e da ogni altro essere di letto. Il mio pianto, estremo sospiro di un agonizzante, contristò la funzione, funesto presagio di una sera di nozze. Al fine sorse l'alba del sabato 4 gennaio. Io portavo allora i capelli in lunghi ricci. Nell'atto di acconciarmeli in quella foggia consueta, la voce di mia madre mi fermò. «Che vai facendo?» mi disse ella. Ti pare sia quella un'acconciatura che si addica a convento? Sciogliti presto i ricci, stamane devi solamente lisciare i capelli. Ma Dio buono, io non entro nel convento per farmi monaca, risposi indispettita al sommo. Se non devo abitarci che per 2 soli mesi, perché disadornare la mia pettinatura? Perché smettere le mie abitudini? Ch'io non ti voglio far monaca, tu ben lo sai, ma la badessa mi ha raccomandato di non menarti stamani con la chioma preparata così affinché le monache non ti chiamino vanarella. E in così dire prese il pettine e di propria mano mi lisciò i capelli. Di là a poco venne il generale Saluzzi e la nuora della principessa di Forino che dovevano accompagnarmi al chiostro. Lungo il tratto di strada che dalla Madonna delle Grazie a Toledo mena a San Gregorio Armeno, mi sentii immersa in uno stato morale che partecipava dello stupore e dell'estasi. Parevami d'essere nelle angustie d'un sogno funesto. Fu assalita la mia memoria dalle più care e patetiche rimembranze di un passato che era in procinto di separarsi da me per un tempo non determinato con sicurezza. Mi tornarono in mente gli innocenti trastulli dell'infanzia, divisi con amiche più fortunate di me, le tenere carezze di mio padre e gli ultimi fatali suoi compianti, i gaudi dei primi amori e l'immagine di Domenico, ah, cuore mio, Domenico. Specialmente a questa reminiscenza ricorse più spesso la mia memoria, straniera perfettamente a tutto ciò che avveniva o dicevasi a me d'intorno. Mia madre aveva avuto cura di coprirmi il volto di un fitto velo acciocché il mio pianto non divenisse lungo la via argomento di pubblico spettacolo. Nondimeno il fazzoletto che spesso mi portava agli occhi faceva volgere la gente verso di me, siccome conobbi ad intervalli dalle osservazioni delle persone che mi accompagnavano. Giunsi intanto al luogo prefisso. Le porte si spalancarono, orride fauci di mostro. Mi sentii di repente aggrappata per le mani, spinta, urtata alle spalle, trascinata non so dove. Udii stridere con sinistro cigolio i catenacci che risbarravano l'orribile porta. Mi fu strappato il nastro che fermava il cappello, tolto lo scialle, e allorquando cominciai a discernere partitamente gli oggetti, mi trovai inginocchiata, innanzi ad un grande cancello di legno dorato. Era il coro. Una monaca mi disse: «Ringrazia Dio del beneficio di averti condotta in luogo di salute». Non risposi, Ne ringraziai, essendo in me ritornata la ragione, per poco smarrita, un'idea trista mi balenò al pensiero, il presagio, ahi, troppo presto avverato, del moribondo mio genitore. 6. L'abbandono. Come fui uscita del coro, dissero di volermi menare intorno pel monastero. Chiesi di mia madre e mi fu detto che per non tenere impediti il generale e la contessa mia cugina mi aveva lasciata, ma che non avrebbe mancato di tornare il giorno appresso. Due giovani monache sorelle mi accompagnavano, chiamavansi Concettina e Checchina. Io aveva bisogno d'aria, l'ambascia mi toglieva la respirazione. Accolsi adunque il loro invito di farmi vedere nel monastero loro ciò che era di notabile. La visita cominciò dal Tempio Sacro a San Gregorio l'Illuminatore, fu detto da valenti archeologi essere il suolo di quella chiesa, il terreno stesso che era anticamente occupato dal Tempio di Cerere, il quale, con quello dei Dioscuri, col teatro grande e con la basilica, circoscrivevano la piazza augustale, ora ingombra, dalla vasta chiesa dal convento di San Lorenzo Maggiore. La novità del luogo, delle persone, degli oggetti, dei costumi, mi divagò un poco. Era quello un mondo nuovo a me, del tutto sconosciuto. Durante quella prima visita al convento, mi imbattei in molte religiose per la via. Tutte quante mi fecero la stessa domanda. «Vuoi farti monaca?» Io rispondeva di no. A questo detto, sorridendo in atto di suprema convinzione, ripigliavano «San Benedetto non ti lascerà scappare quando avrà indossate le sue lane». Qualche giorno prima di entrare nel monastero, era venuta la fantesca di mia zia a riferirmi come una giovine monaca chiamata Paolina desiderava di farsi mia amica e confidente inseparabile non appena avessi posto il piede nel chiostro. Mi vi trovava intanto da più ore, né vedeva al mio fianco altre monache che le due sorelle da mia zia pregate di guidarmi nella visita. Chiesi a codeste quale fosse la monaca nominata Paolina. Risposero essere una giovine, solita sempre ricrearsi in compagnia di due educande. Ma vidi infatti d'averla incontrata nel mezzo di due giovinette passeggianti nel chiostro, ed anzi mi maravigliai che di tutte le monache fosse stata l'unica a non avvicinarmisi. Fatti altri pochi passi, lungo l'arcato corridoio del pian terreno, la incontrammo novellamente. Atteggiatami di larità, le mandai da lungi il saluto con un sorriso, ma parvemi d'osservare che in risposta ella e le sue compagne si fossero scambiate sottovoce qualche parola in tono beffardo. Questo mi mortificò assai, ma non basta. Concettina mi domandò perché avessi voluto sapere quale monaca fosse nominata Paolina e dove l'avessi conosciuta. Raccontai dell'ambasciata ricevuta. Si rammentò allora Checchina che, essendosi quella Paolina disgustata con le sue amiche alcuni giorni prima, mi aveva mandato tale messaggio, non per altro che per indispettirle, ma che poscia, rappattumatasi con esse loro, aveva lor promesso di non mai avvicinarsi a me, essendone le educande di già gelose. «Gelose!» esclamai stordita. «Vi sono dunque gelosie fra voi?» «Purtroppo, signorina! Così non ve ne fossero», risposero le sorelle in coro. «Misericordia», soggiunsi, «ci sarà anche la discordia, inseparabile dalla gelosia». Strana, infatti, mi sembrò la gelosia fra donne, stranissimo e volgare il pettegolezzo della monaca Paolina. Pestifera la discordia in una casa ermeticamente chiusa e non beneficata dagli influssi della rimanente umanità. Da quel primo sintomo di corruzione mi accorsi che aveva da fare con donne le quali, benché nobilissime per nascita, pur tuttavolta non avevano che l'educazione negativa delle loro proprie domestiche. Io aspettava la sera con ansietà per dare libero sfogo all'inquietudine che mi rodeva, credendo di avere una stanza tutta per me. Ma quale non fu la mia sorpresa nel vedere il mio letto collocato nella camera stessa della zia badessa, con al fianco un terzo letto destinato alla sua conversa. Mi veniva pure intercettato il conforto della solitudine e delle lacrime. Mentre mia zia spogliavasi, recitando delle preghiere sottovoce, io dovetti soffrire il tormentoso interrogatorio della conversa. Questa donna, Angela Maria di nome, aveva 32 anni circa, era di una costituzione ferrea, di voluminosa corporatura, tarlata dal vaiuolo, con bocca larghissima e denti neri. A questo insieme disgustevole aggiungeva ora un riso agro e smodato, ora una cupa fissazione, con un rotar senza posa di due occhi squilibrati che sembravano pronti a balzar fuori dell'orbita. D'altronde, scortese, disattenta con la mia vecchia zia e molto petulante allorché questa interrompeva il suo eterno cicaleccio con qualche rimbrotto. Finalmente si pose in letto e prese sonno per lasciarmi sola coi miei tristi pensieri, sola nel mezzo d'un silenzio, da altro rumore non turbato che dall'isocrona battuta d'un orologio a pendolo. Lo era di poco addormentata, vinta più dall'oppressione morale che dal sonno, quando sul far del giorno fui svegliata da Angela Maria, la conversa di mia zia badessa, che voleva sapere da me se io voleva assistere alla prima o alla seconda messa. «Ormai son desta», risposi traendo un sospiro. «Assisterò a quella messa che piacerà a te». La conversa mi diede mano a vestirmi, non cessando sempre di ciarlare, poi presami confidenzialmente per la mano, nel modo che è menato un cieco, mi fece scendere al comunichino, dove trovai riunite parecchie monache nell'atto d'ascoltar la messa e di comunicarsi. Alle 10 venne mia madre. La ritrovai assisa nel parlatorio. Al primo vederla proruppi in pianto stemperato, le dissi essere infelicissima in un luogo la cui inoperosa e stupida reclusione era, a parer mio, più insoffribile della stessa prigionia. Tremendo martirio per me dover essere quello di convivere con gente non meno ignorante che ineducata, che già parlavano di farmi monaca, che io presentiva di dover perdere la salute, come era in procinto di perdere la libertà, dovendo dipendere finanche dal capriccio della conversa di mia zia, la quale mi voleva far alzare prima di giorno per trattenermi un'ora in chiesa esposta a un freddo insopportabile, a un disagio che m'avrebbe fatta prendere a noia la preghiera stessa. Stava per rispondermi la madre mia, quando entrò la portinaia e in seguito accorsero altre monache per salutarla. Dopo di aver scambiati alcuni termini di cortesia, disse ella di voler andare ad ascoltare la messa di San Lorenzo e che più tardi sarebbe ritornata. Uscì dunque del parlatorio ed io, attendendola, mi trattenni fuori del corridoio, immersa nel sentimento dell'abbandono in cui slanciata mi aveva una dura fatalità. Scorse un'ora, un'ora e mezza, ne scorsero due, mentre io misurava a passi lenti il pavimento del corridoio e frattanto non vedeva ritornare mia madre. Dolente del suo ritardo mi volsi alla portinaia pregandola di mandare alla vicina chiesa di San Lorenzo una delle tante donne che ne stavano oziose all'atrio del monastero per sapere ragione che impediva mia madre di ritornare. La portinaia, presami la mano, mi disse: «Abbi pazienza, cara mia, per amore o per forza bisogna trangugiare questo calice». «Di quale calice parli?» le chiesi spaventata e col presentimento di qualche nuova sventura. «Ti dico che mia madre tarda a tornare e vorrei conoscerne il perché». «Inutilmente l'aspetti». «Perché?» «Tua madre è già partita alla volta di Reggio». Se la portinaia non mi avesse sostenuta per il busto, sarei caduta in terra. Per lunga pezza restai pietrificata. Ben sapeva io che la madre doveva lasciarmi, ma perché mai partiva l'indomani della mia chiusura? Perché partiva senza avvertirmene? I miei nervi, scossi già di troppo da tanti dispiaceri, non poterono resistere a quest'ultimo colpo. Fui assalita da convulsioni. Quando ebbi recuperati i sensi e riaperti gli occhi, mi vidi circondata da uno stuolo di monache, di converse, di educande, tutte straniere a me, tutte intente a pascere l'ozio, la curiosità, l'apatia, proprio alla loro condizione nello spettacolo del mio abbattimento. Chi bisbigliava di qua, chi commentava di là, chi dall'altra parte componeva il viso al sarcasmo, non una sola di esse che mi volgesse un accento di sincera carità. Il medico Ronchi, che allora entrava nella portineria, essendo uno dei curanti della comunità, mi fece somministrare pronti rimedi. La febbre che mi sopravvenne mi confinò in letto per più di una settimana. Quando il destino è avverso, concatenate vengono le disgrazie, Di lì ad un mese incominciai a persuadermi che era purtroppo reale anche l'abbandono di Domenico, il mio amato. Nutriva sino allora in quel mio sepolcro la dolce speranza non solamente di ricevere qualche sua lettera, ma sì ancora di vederlo ritornato in Napoli e farsi il mio liberatore. Se uguale al mio era l'affetto suo, se generosi sentimenti albergavano nel petto suo, se la voce dell'umanità gli favellava in cuore, se la reminiscenza della mia verace e costante devozione poteva nell'animo suo, più che il vile interesse, come avrebbe egli tollerato che io cadessi vittima della giuratagli fedeltà. Quante volte guardai dal coro della chiesa per vedere se vi era, quante volte dall'alto dei belvederi con febbrile ansietà slanciai lo sguardo in cerca di lui lungo le vie circonvicine. Spesso, delusa dalle sembianze, dall'andatura, dal vestiario di chi parevami che gli somigliasse, mi sentii in procinto di svenire, credendo che giunto fosse il momento del mio riscatto. Ma, oimè, né egli direttamente mi indirizzava due linee, né mia madre nelle sue lettere mi faceva motto di lui. Vedeva di tratto in tratto Giuseppina, la mia sorella maritata, ma la presenza di questa diletta sorella non faceva ogni volta che aumentare le cagioni del mio dolore. L'infermità alla gamba provocata dalla caduta erasi col cambiamento dello stato dichiarata incurabile, talché per muoversi la misera sorella mia era costretta di appuntellarsi alle grucce. Veniva pur talvolta a porgermi pietoso conforto il generale Saluzzi, cui tributo filiale gratitudine. Gli altri parenti, l'amante, gli ottici non si rammentavano più di me. Sarebbe sì detto che già un abisso mi separasse dal mondo intero, a dispetto dei cocenti umani che tuttora echeggiavano teneramente dentro l'animo mio. Se non che, nel mezzo di tanto abbandono, una consolazione sublime rattemprò le mie pene, l'elevazione dello spirito a quel Dio della carità che volle nascere, vivere e morire, non già per i muti orrori del deserto, né per l'inanimata solitudine, ma sì bene per la salute dell'umanità, in civile e vasto consorzio tenuta da una sola e invisibile legge di connessione. Una sera di febbraio mi trovai sola sul terrazzo. I raggi del sole morente non risplendevano più che sulla cima del Vesuvio e sulle vette di Castellammare, le cui nevi ripercuotevano un chiarore che respingeva il progresso dell'oscurità. Regnava intorno un insolito silenzio. Lo schiamazzo del carnevale aveva attirate le genti nei centri più frequentati della città, per modo che il quartiere di San Lorenzo, ove ergesi il monastero, restava del tutto spopolato. Non giungeva all'udito mio che l'eco spirante delle popolari esultanze, siccome fragore di mare lontano. Una commozione novella mi invase. All'aria libera, sotto l'immensa volta del firmamento, mi sentii sola, è vero, come prima, ma non isolata. La voce del Signore m'appellava alla contemplazione della sua misericordia. Piegai il ginocchio a terra, giunsi le mani. Sollevai al cielo le pupille bagnate di pianto ed invocai l'aiuto dell'Onnipossente. «E che sono io?» esclamai, rialzatami poscia e tergendo le lacrime. «Che sono i miei patimenti in confronto a quelli della nazione cui appartengo? Se sotto il doppio giogo della temporale e della spirituale tirannide langue l'Italia intera, pretenderei io, atomo incalcolabile, io sola fra tanti milioni di oppressi, consumar la vita nei contenti e nella prosperità?»